Bardù. Ehi, briciola, è bello. E tondi. A posto, sì. Tutto a poco. Mi sto preparando a mangiare. Alle 9:30 ci esco a casa. Prova. Voglio per tu calzino, cazzo. Sono bucato. Mi sono uscito dalla matica. Allora hai dormito troppo. Ah, cosa troppo? Bah. Solito. Aspetta, sto volando qua, se barre led. Un cazzo. Niente da fare. Devo fare fuori quelle TV, cazzo. Adesso vediamo. Perché mi ha modificato questo coglione? Non ci credo. Sono, ma sono come rovinare i led, cazzo. Ma dimmi tu. Prova. È un bello gradiello. E beh, Claudio. Sì, provando qua, stavo provando una... l'altra radio, l'altro K, non so se sta andando bene. E ho voglia. Lo senti a Claudio, Manuel? Cinco. Si pari due. Sì, va bene, Claudio. Sì, io. Lo senti a Claudio? Oh, la devo sollevare. Aspetta, avete parlato assieme. Lo senti a Claudio, Manuel? Salutano. Tu non lo senti, Claudio, Manuel? No, oggi non lo sento. L'altro giorno già l'ho sentito. Ho detto amplificazione, ce n'è, la devo osservare ancora. Oh, va bene, Claudio, vedi che sta sul wifi. Sempre la stessa? Sì, va bene. Il segnale è aumentato qualcosa, niente? No, sempre uguale. Sì, 9 a picchio di 9,10. 9 a picchio di 9,10. Vabbè. L'antenna vuole messa bene, ma io non la uso quasi mai, 27, per i 10 metri, però già dovrebbe andare bene così, dai. Sì. Sappi che passo ogni mattina, ogni santa mattina, e passo vicino a casa tua. Ehi, quando passi gioco ancora dormito, aspetta solo appena, non mi piace così, vediamo appena più di... ecco qua. Così meglio va, ho troppo latte. No, non va bene anche prima, va bene. Sì, per avere un riferimento, ho capito, perché questo è digitale, il K digitale, dai, 450. Va bene. Emanuele, niente, non lo sento, Emanuele, non lo intendo, con questa radio non lo sento, o è sorto la radio, o è sorto Emanuele. No, è l'antenna che è stata udito, ma chi si chiama interni? Hai tu vivo l'antenna che è stato udito. No, ma è un problema mio, lui, non è un problema suo, è un problema mio, capito, per questo è molto... un po' particolare con l'altra radio l'altro giorno lo sentivo, con questa non riesco a sentirlo. Vabbè, dai, non c'è problema, continuate, Luca, che finisco di fare sta cosa qua, già mi sto ascoltando. Via, andava, io facciamo delle ricerche su eBay. Dove? Oh, sembra un occhio qua di testa, cazzo. Oh, io sono tanto di qui. Che turno c'è, Emanuele? Cos'è, Olu? Ti dico, che turno c'è adesso? Sì, faccio 10:30 sempre. Prova con questa, con Emanuele, a vedere se ti ascolto, questo è il 140. E io ti sento bene, Claudio, io ti sento sempre, sia prima che adesso. Vedi, con questa ti sento, 2-3 ma già ti sento. Quanta differenza c'è l'una dall'altra come modulazione? Insomma, non molto, dai, è sì, molto simile. Ehi, vabbè, i microfoni sono uguali, non c'è ambo nuda. Non cambia niente, quella là è un semi digitale, questo è un analogico, mi piace di più, perché lo Smith è con la lancetta, capito? Che si muove come una pizzona. Diciamo la timbrica questa è poco più spinta, ma va bene anche l'altra. Va bene anche l'altra. Dai, comunque lo ascolti adesso, Emanuele. Emanuele arriva a 2, 2 e mezzo, però già lo sento con questo. Invece con l'altra proprio 0 sotto 0. Avanti, Emanuele. Mi date slivare, Emanuele. Ehi, allora, no, stavo ascoltando. E beh, per la casa ho detto, sta a posto. Cosa? La casa, sta a posto. Per? E mi fate della luce, sta a posto. Non è andata la bolletta ancora, devo chiamare, domani chiamo. Ma che avevi da ancora, che cazzo? Sì, perché l'ho passato a nome mio. Non vorrei questo coglione che se mi prendesse le bollette dalla cassetta e me le fa sparire. Sì, occhio, sapete che cacca nella luce. Ma tu sei qua, che qua. Peggio. Per carità. Prego, prego. Bello, a casa o a posto? Sì, per il momento sì. Stiamo a casa le balle, i guveni. Che è questo break? Avanti con l'eco, passa un po' l'eco però. Che ne vuole entrare avanti? No, vado. Non si capisce niente, se abbassi l'eco mai forse si capisce. Ho scemmato bocca di ho tutto, ma c'è meglio. No, forse ho usato pure io, ma tuo fratello già c'ha la macchina bianca, chi è quello, Antonio? Non ho capito, Cla. Tuo fratello, quello grande, cosa c'ha una macchina bianca? Giovannino, sì. Ah, Giovanni, ma dove abita? In via Pigliaru, no? A Sorso abita. Mi incrociavo da Manzano in via Pigliaru, c'era mente della macchina. Ma è tra i cantieri. Lì alla fine del vialotto. Beh, scusate lì in zona, non lo so, Cla, so che stava nel cantiere, poi Mi ha visto che stava pulendo il vetro della macchina, non mi ha visto lui. Sono passato lì, dal giubilo. Una Citroen mi sembra sia, no? La C3A, nuovo modello. La C3 bianca, nuovo modello, c'era lui allora. Vabbè, trovata la macchina, Claudia, ma tua figlia. No, prossimo anno ce la compra nuova, quella l'ho demolita. Demolita è venuto a prendersela quando avevo avanti, c'era il futuro della mattina, non so come è andata ancora le assicurazioni a bloccarla, ma non me ne frega niente già intanto. La macchina non c'è più, è demolita, quindi. Ha fatto fuori la macchina, ma i pezzi ce li hanno recuperati quelli buoni? No, l'ho data matta dal ghero, capito? Perché qui sa se volevano fare i furbi, ma allora tramite Roberto Quadrato abbiamo rottamato al ghero. Il motore lo dà un amico che mi fa un sacco di cortesie, insomma dei pezzi ad un amico stiamo dando là, capito? Dei pezzi ad un amico che ogni tanto le chiedo qualcosa e quindi glielo faccio loro. Non solo di bagaglio, dobbiamo bagare pure lui, caratteristi, ma veniva per gli assini, invece questo Pierpaolo si chiama, non mi ha fatto pagare niente, caratteristi. È venuto, se l'ha presa, se l'ha portata via, ho pagato solo la rottamazione. Ah, ho capito, vabbè. Lo posso fare acqua dalla mia matrice, che stavo messo la gomma nuova, gli ammortizzatori nuovi, ci sono, ci ritardo, ci penso. Tutti i sedili fatti pulire, che si è fatto conto, 220 euro di gomme. 150 euro ammortizzatori, nuovi, tutti e quattro li ho cambiati. Poi c'è quello di più ripresa, adesso non me lo ricordo, vabbè. Poi ho fatto lavare tutti i sedili, facevano schifo. Ho fatto lucidare i fari, per carità che... Ecco, dovrei essere riuscito a disattivarlo. Tutti avanti. Io non so i gommi, vedrai, nuovi. Ma erano 900 euro di turbina nuova. 5 distribuzione, frizione, cuscinetti, tutta nuova con la macchina, un sacco di soldi per tenerla ancora un paio d'anni e poi l'avrei cambiata. E invece non verrà rimida. Vabbè, pazienza. Avanti il break. Sì, dovrebbe essere disattivato adesso l'eco, se faccio un controllo, grazie. Allora, da me arrivi segnale 7, radio 2, non so dove ti trovi, avanti. Zona ottava. Ah, ok. Non lo so, Claudio, avanti Claudio, lo senti? Poi ci direi in autonomia attiva, avanti Claudio. Sì, arriva bene qua, anche la me arriva a 7, chi sei? Operatore Giuseppe, nominativo Acqua Reale. Acqua Reale, nominativo Giuseppe, va bene Giuseppe, Acqua Reale. Santiago 7, radio un po' più bassa, come ha detto Luca, però insomma abbastanza comprensibile. Io ti accoppio, vai lui, a me da se è rientrato Manuel, si è caduto a Cabatterra. Ci sei Ginko, come ci ascolti a noi a volta, perlomeno a me, come mi ascolti da Ricco, a quella Reale? Radio 7. Radio 7, buono là. Claudio, tu non me ne vada la radio 7? No, no, io non ho Giuseppe, è Giuseppe Anzura. Dove ti trovi? Io? Entrati. Io sono nel scorrimento veloce Perugio, Serra Secca Alta. E Santiago 14. Io sono al monte, Monte Rosello. Monte Rosello Alto. Non so se sai dove sia. Chi è? Tappa, la mia donna che abita a Monte Rosello Alto. Ah, ok, ok. Allora, voi sta andando, là? L'intenna. No, là. L'intenna va benissimo. Chi è che ha detto Santiago 14 avanti? Fammi vedere, ma non le pigliare. E quindi lui tutto a posto, sì. Là, si lavora. Si lavora. Quindi la macchina sempre a quell'ora. Va bene, dai, va bene. Tutto a posto. Adesso vediamo un po', anno nuovo, se riesco a cambiarmi la macchina. Vorrei una macchinetta più decente, là. Dove Dio comanda. Vabbè, piano piano, i passi si fanno piano piano. Che sei qua? Sono qua, aspetta. Aspetto che mi stanno chiamando. Fai. Ora faccio progetti per il controllo, alla prossima. Ci siamo tutti. Ciao Lupo Grigio, buongiorno, buonasera, mi ascolti? Ok, ok, è un po' bassino arrivi da me, non so dove sei, boh. Via Principessa Yolanda? Ok, siamo un po' vicini anche, però vabbè, c'è questa antenna piccolina. Va bene, non so se ti ascoltano gli altri, ma sarà difficile, boh. Ok. Fai? Più o meno uguale. La radio è un po' bassina. Poi già ti tiro fuori, dai, non c'è problema. Io sono al Monte Rosello. Ho capito. Dovresti lì fare qualcosa, mantenino magari fisso, in modo tale che facesse, che fa una buona massa, ecco. Altrimenti nada. Anche la mantra di macchina va bene. Sto parlando con Lupo Grigio, caro, senti. E chi è Lupo Grigio? Lupo Grigio, ti ricordi? Se parlava qualche anno fa. Ah, quello che c'aveva l'antenna nel poggiolo. Positivo. Lo senti a Claudio, Lupo? Positivo, l'antennino piccolino. Sì. E lì potrebbe mettere anche una antenna di macchina. Non so se è una ringhiera, la mette sopra la ringhiera. E magari riesce a farsi sentire meglio. Ma sono una boomerang. Sono una gallerella, può piccare. No, ti mando i saluti di Michele, Bolverone, che mi aveva chiamato lui. Ma Michele era? Ma ti aveva dato un segnale alto, però non capivo chi era. A Michele era, 5:45, mi ha chiamato. Devo fare una prova in 10 metri. Se non hai detto dove scendi. Adesso mi forse di uscire, mi vuoi andare. Perfetto, esce, una grande. Non mai puoi salutarti. Io grazie. Meritaggio, ci vediamo con Michele. Mi ha dato. Se passava cosa mangiare stanotte? Non lo so. Cosa posso mangiare? Sto pensando. Non ero troppo in ballo con questo mangiare lui. Mamma mia, che stavolta non si sa cosa fare, davvero, anche qua. Una volta inventi, basta. Che palle. Ma io spostatevi. E a chi? Cos'è? Passando il treno. Ciao Claudio, ciao Luca. Vabbè, Michele. Di Robloffetta, ma non te ne passendi? O la vetturina? Chi mi ha salutato? Gianni Robloffetta. Ma sono andato Michele, va bene. Ciao Gianni. Ciurmaglia. No, che i treni andano e tornano, Claudio. Sempre andando. Ogni tanto lavori di notte. Non si finisce più. Va bene, che si dice? Non ho preso già, quella sera volando di notte, ma dove ti siedi? La sedia c'hai? No, dico qua alla stazione, ogni tanto fanno dei lavori notturni qua, facendo manutenzione, insomma, e ogni tanto la notte si mettono a fare casino. Tu Rogerio mi va, no? Ma tagliare la leva. Ma mi viene male. sono distanti un po' di metri. Ciao Luca! Ehi, già, mi senti, sì. E tanto, adesso, per cosa non hai preso? Vediamo se ascolti a Lupo Grigio. Lupo Grigio, prova a chiamare a Gianni, se lo senti. Ti copio bassino, dall'ultima volta che ci siamo sentiti mi sembra che la situazione non si è evoluta molto, dai, sempre col portatile. Vabbè, verranno occasioni migliori, dai. Claudio, ascolta, siccome ho cambiato l'alimentatore, ma senti per caso l'alternata nella modulazione? Positivo Gavarocci. Bah, Claudio si è farato, me. No, non ho giubucato. Ma dove sta parlando Lupo Grigio? Lo abitava sempre. Affermativo. Sì, sempre lì. Ma non c'aveva l'antenna nella ringhiera, non so. Abbiamo fatto un incrocio di antenna tra un frigorifero e una lavatrice, tempo fa ci aveva. Boh, non so che dirti. Stavo dicendo, siccome ho cambiato l'alimentatore, mi dici se senti per caso alternata nella modulazione? Ah, pulita già, perfetta, te l'avrei già letto. Bene meda, dai, io vado a fare faccende di casa, dai, vi saluto, ci sentiamo magari un altro momento, ok? Dai, buona serata, ciao ragazzi. Ciao già, un abbraccio, a presto, vai tu. Ehi, ciao già, alla prossima. Sta parlando, sta qualcuno, te la nessuno io. No, nessuno. Su come se ne cosa magna? Vado da mangiare, dea, con la redda. Oh, io mi ho dormito per poco, se va bene sotto la televisione. Oramai è vecchio, prende il giorno per la notte, cazzo. Dorme di giorno, e la notte cazzo di giro. Cazzo. E a te come avrebbe la bocca, lo scendo io il giorno. Cazzo, poi già non si sente. Pare che faccia rivolti camminando, cazzo, ticchi, ticchi, ticchi. Beh, poi un cane è pesantuccio anche, non è che sia lì, non è quanto è dea, no? Ma dea ha già diventato un pochito, vieni a di babbo, vieni. E poi la pappa, io vieni, mi c'è una salita, vieni qua. No, ma i cani qui sono troppo belli piccolini. Ma più cani usci. No, beh, mi ero fatto anche a 35 kg, 36, adesso ne pesava 25, poi 26. È magro, è tutto biondo, si conta la dottor La Costera, ha un tumore alla cugnuppa, ne sta mangiando tutto. Cioè? Ha un tumore a un testicolo lui. Praticamente se lo vedi c'è un testicolo che è vuoto e l'altro che è una palla. Yes. Questi tumori sono già molto di guglioni. Infatti. No, beh, ma non è che lo veterinario, se fossi stato più giovane l'avrei fatto operare, ma non ne vale la pena, Claudio. Lascialo stare tranquillo e sereno fino a quando va, ma se fai andare un fumo. Mangia, fai bisogni da solo, tutto è abbastanza attivo, però non sta assimilando più niente. Non assimila più. E l'ambiente fa andare un fumo. Solo che sta iniziando a rompere le balle perché prende il giorno per la notte se ne sta in giro per la casa, si va in tutte le stanze, e notte mi gioca sul cadere, io vado a berra, mi giro, cazzo ci avevo la faccia sua davanti, cazzo. Siccome quando respira la russa, gli dico cazzo, ma cosa è entrato, lo ginghiale dentro gas. Questi ginghiali sono fanno una strage, hai visto quel tipo ci sto fuori strada è morto. Cazzo, allucinante, questi ginghiali sono giramento di balle. Non me lo dici, se vuoi venire da quest'ora, adesso mi. Tu stai in veranda in silenzio e li senti camminando in mezzo ai cespugli. La carriera ci ha buttato una birra, ci ha investigato un botto a luce. Come ha visto la luce, più un bel partito. Non sai io in 5 anni che sono qua, quanti incidenti ho visto. Non hai idea di quanti incidenti sono successi in questo rettilineo. Perché attraversano la strada. Posso immaginare. Uno che ci augura molto. Molto, di tutto è molto. Caputo, ha pigliato in pieno con una moto, uno scooter. Ha fatto un volo e si uscita da rete al guardarei. Se prende il guardarei lo spacca in due. Io stavo rientrando a casa e l'ho visto proprio volare. Ho attraversato il cinghiale una decina di metri prima di me, era appena in pieno. Si è uscito da rete al guardarei. Boh, morto. Fermato, quattro fessi, mi si è fermato a mano. Ci sei, non mi dio. allora sono attaccato subito, ho preso la pila, ho chiamato il carabinieri 118, tutto grimbato, ma ormai non c'erano massi, è caduto nell'erba, sono graffiato, tutti i angoloni in capo, però era vivo. Questi cimeli fanno danno, a parte che sono tutti, ma sai che l'altra volta stavo rientrando a casa, sono passato da sotto, da dove c'è, dove ci sono i campetti, cazzo che i cinghiali, tranquilli, ma niente, in chiudi, ma c'è la cabina elettrica dietro, lì, cazzo gente, tranquilli sereni, e poi ci sono due finestre, chi uno mi ha puntato, lo sai che là, mi ha puntato, gente, cazzo che mi messo a entrare in macchina, va. Cattivi sono, non ti fidare, non ti fidare. Io appena entro nella strada, che arrivo 10 metri prima di casa, ci sono tutte le luci che si accendono al passaggio, capito? Con i sensori per illuminare. Perché una volta sono arrivato al buio, cazzo, addirittura mi rimanevo dalla macchina ed era da lei della macchina. È un casino, mi stare attenti. Poi se li trovi con i cuccioli ancora peggio. Con i cuccioli devi stare veramente attento, ti sicuri subito. Quando è così da solo è meno aggressivo, ho capito. Però bisogna stare sempre attenti. Vabbè. Purtroppo la natura è quella, è un animale molto, molto particolare. E bisogna andare lì, però fargli danno, fargli danno. Un bel danno fa. Io sicuramente parlando di tema, poi un'altra volta lo stesso, stavo scendendo sempre lì dalla cabina per farmi la salita di via Angrona. Cazzo, senti indiani proprio morrugnenti, sono fuggito. Cazzo, c'è i bicicli, poco, poi ti fanno con il cane, poi sono bastardi, Sono scappato, claro, ho fatto un altro giro, infatti lì non sono più passato, perché lì in quella piazzetta è buio, e non li vedi. Cazzo, è più all'improvviso, guai. Sicuramente stanno nella strada, via Milano è pieno, se ne vanno lì nelle rotonde, lì nelle rotatorie, a scavare, a cercare vermi, a mangiare, capite? Ma poi la rotatoria nuova che è arrivato a via Goggio, lì dove c'è il Conti, è tutta sfossata dai cinghiali. Sì, io salendo a Osio vedo che se tu... come fa la salita proprio verso la discarica lì, se guardi bene lì ai lati della strada, ai bordi della strada, è scavato. Per forza scavano per cercare acqua, capito? No, non è qua, è pieno, solo che riserva, non si può cacciare. Io avevo fatto anche la richiesta alla forestale, ma che no, perché è abitato, capito? Tutti i buoi pugni ai paraguaienti a casa, non fa, però bisogna stare molto attenti, pazienza, non so, ha visto quel signore, quel dottore Rogera, universitario, professore, guarda in pieno, ha caputato, gribato, porca miseria, ragazzi. Un casino, cazzo li temo, cacciatore non li teme perché sa cosa fare, ma io li dimmo un bel. Sì, anche tanto di rigo, anche io lo temo. Infatti io, vabbè, di mattina non penso alle trovi, li trovi di mattina anche. No, di giorno è difficile, molto difficile. Di notte escono al buio. Prega. Come vanno a caccia, i cacciatori vanno a fare la battuta, capito? Devono scovare, sono sotto i maccioni, i drumidi, capito? In due secondi che stavano un messaggio. Qui c'è gente a 145. È il vero, Ma come non ti sentivo a te, ma stai parlando con Michele, è strano. Mi sentivi? No. Non mi sentivi? No, assolutamente no. Sì. Non ti mai. Sì, mi parlo benissimo, senti. Ma dove CCBZ1D? Sì, Roberto, vero. Anche a me non mi sentivi. Un po' scusemo, dove andiamo? Guardi, mi allontano un attimo che devo accendere la caldaia. Allora. Mi stavi chiamando, Clara?